Deco MC, questo è Deco MC, direttamente dalla zona 35, raga. Yo. Disoccupato a tempo pieno, pieno, pieno. Trovati un lavoro. Datemi un lavoro serio, un lavoro serio, un lavoro serio. Hip hop iperteso con il muso offeso, tutti impara se da quelle carte scena appeso. C'è chi si raccomanda, chi invece comanda. Il greggio al pascolo fasullo della propaganda, ruminando la favela in uno degli stomaci. Senti la voglia di evadere, allora provaci, privaci della tua faccia per un breve istante. Ti ributteranno in mezzo se fai l'arrogante. Se invece ti defili con stile da sto porcile, in silenzio come il fine traccia di un vinile, hai più spinta, sembra che ce l'avrei vinta. Ma da domani è tutto uguale, fra si ricomincia. Il rap è la chiave, il rap santi lumi, salti tra le nubi festeggiando con Anubi. Ancora meglio se il tuo stile è piramidale, cioè che c'ha la punta nel culo fa male. Guarda, io non lo so, questi minchia di ragazzi. Guarda che è l'hipo, tutti i giorni non farò cazzo. Scansa fatichi, senti, scansa fatichi. Non chiedere, non dare, non fare le rimenare. Non essere socievole, non startela a menare. Ricorda che competere è vitale, ti diranno. E se la grinta non ce l'hai, te la venderanno. Caro te, caro man, caro caro vita. Tutta colpa dell'ennesima banca fallita. Del cash in the bag, tre minuti netti. Per la fuga tipo Mary in cima ai caminetti. Azione, t'han detto che la vita è un suo copione. Cazzata colossale, questa vita è un gran bidone. Falsa proprio come la Marina e il suo culone. Ciò che chiamano cazzata, tu lo chiami aspirazione. Selvaggia white e non ha vergogna, come quella handicappata fiammetta cicogna. Qui gatta ci copre più, nemmeno si sogna. Ma ti invitano a placarti peggio che una spugna. Ma i miei tempi, se andavo a tagliare la linea, ma ricordo pure ci stavo a fare gli urapi tutto il giorno, a farci le bomboloni. Sono drogati, True love, dirty love, ma ci odiamo tutti. Per le ex, i loro ex sono tutti brutti. Dalla vita in giù non conta la finezza del profilo. Conta solo quanto e per quanto te lo infilo. Propongo mezzo chilo, ma temo l'eccesso. Se conti che non fumo più, ma fumo lo stesso. Solo meno spesso, con uno spessore minore. Tutta colpa della nostalgia che porto nel cuore. Mi farei ammazzare per te, amore mio. Ma se scopro che mi inculi, t'ammazzo prima io. Evitiamo quindi di bollirci il cervello. Bye bye baby, patatine, è stato bello. TFB, CCC, adesso succhia qui. Invece che guardare la De Filippi sopra il TV, non è detto che non mi innamoro più, bambina. Ma adesso tanto sesso e dopo amici come prima. Ma tutti hip hop molle, mi lasciami fare. Ma lasciami fare. Ma mattina va, ma vai a svuotare un pappagallo. Canta che ti passa pure con assa l'entrata. Fatti il repertorio e la multa resta salata. Ehi, buona serata raga, qui la festa. Guarda no, siamo tutti qui a fare la carta pesta.